com'è, che figura da idioti, quella dei genitori feriti. Te contro me, due carri armati, vuoti e telecomandati da uno stuolo di avvocati. Te contro me, contro tutti si va, senza aver rispetto e pietà. Muore l'amore, ciascuno per sé, e i figli lì in mezzo perché. Cosa hanno fatto mai di male, e perché dovranno pagare questo bel capolavoro? Perché loro che cos'è, che ne sanno dei problemi? Loro il poco che di buono si è fatto io e te. Te contro me, e risposta non c'è ai perché dei bambini smarriti. So che vorresti a me negarli, io dovrei come affittarli, ritirarli e riportarli. Te contro me, questo gioco incosciente non avrà vincitori né vinti. Tiriamo i conti, sono loro i bambini che perderanno di più. No, alle uscite comandate, allegrie cronometrate, che la legge accorderà, non mi va. E i tuoi avranno voglia a farmi guerra, muovono veloce cielo e terra, ma da me non li avrai. Te contro me, e l'inferno è pazzia, e pensare che era poesia. Te contro me, era la vita, la sua favola infinita, nel mio letto accanto a te. Te contro me, ci accomuna un passato da salvare per quel che ci ha dato. Noi faccia a faccia un giorno in tribunale, farà soltanto del male. Ci raccorro, non facciamo a chi è più sordo, evitiamo il punto di non ritorno, perché un giorno superato questo scoglio ci ritorni il desiderio di te.